Storie italiane. La principessa Rosetta. C'era una volta un re e una regina che avevano due bellissimi figli e una figlia piccola che aveva dei capelli dorati così belli che chiunque la vedeva non poteva fare altro che amarla. Quando fu il momento del battesimo della principessa, la regina invitò fate da tutto il mondo e fece uno splendido banchetto. Grazie per il meraviglioso banchetto. Ora chiediamo il tuo permesso per andare. Non dimenticate qualcosa? Ditemi, cosa succederà a Rosetta? Altezza, temiamo che Rosetta possa essere causa di grandi disgrazie per i suoi fratelli. Potrebbe persino incontrare la morte a casa sua. Questo è tutto ciò che siamo stati in grado di prevedere per il futuro di tua figlia. Ci dispiace molto di non avere niente da dirti di meglio. Il re e la regina furono profondamente dispiaciuti. Nei giorni successivi, il re si consultò con i suoi ministri e saggi da varie parti del suo regno, ma nessuno riuscì a trovare una soluzione. Nel frattempo, la regina continuava a piangere alla culla della piccola Rosetta. Mia cara, sembra che ci sia un'ultima speranza. Il re disse alla regina che in una grande foresta vicino al castello viveva un vecchio eremita e che la gente veniva da lontano e da vicino per consultarlo. Allora dobbiamo andare a chiedere consiglio a lui. Forse saprà cosa fare per prevenire le disgrazie che le fate hanno predetto. Partirono molto presto il mattino dopo, con i loro cavalli e gli uomini del re che cavalcavano dietro di loro. Quando raggiunsero la foresta, scesero da cavallo perché gli alberi erano così fitti che i cavalli non potevano passare e si diressero a piedi verso l'albero cavo dove viveva l'eremita. L'eremita subito riconobbe il re e la regina. Benvenuti, re e regina! Cosa venite a chiedere a me? La regina gli disse tutto ciò che le fate avevano previsto per Rosetta e chiese cosa avrebbe dovuto fare. L'eremita disse loro che avrebbero dovuto chiudere la principessa in una torre senza mai più lasciarla uscire. La regina lo ringraziò e lo pagò e in fretta tornarono al castello. La principessa venne messa in una grande torre. Il re, la regina e i suoi fratelli andavano a trovarla tutti i giorni, così da non farla annoiare troppo. Il fratello maggiore era chiamato il grande principe e il secondo il piccolo principe. Amavano molto la loro sorella. Presto il re e la regina si ammalarono e morirono il giorno stesso. Tutte le campane del regno vennero suonate. Tutti erano dispiaciuti, Rosetta in particolare. È tempo per te di prendere il trono. I duchi e i consiglieri misero il grande principe su un trono d'oro e lo incoronarono con una corona di diamanti. Lunga vita al re! Lunga vita al re! Lunga vita al re! Ora che siamo noi al potere, tiriamo nostra sorella fuori da quella torre di cui è così stufa. Buongiorno, caro fratello. Per favore, portami fuori da questa torre noiosa. Sono così stanca. Andiamo via da questa brutta torre e molto presto il re organizzerà un grande matrimonio per te. Quando Rosetta vide il bellissimo giardino pieno di frutta e fiori, con erba verde e fontane scintillanti, rimase stupita. Wow! Questa è la cosa più bella che abbia mai visto. Cosa ti diverte così tanto? Che cos'è? È un pavone. È una bellissima creatura. Dichiaro che non sposerò mai nessuno se non il re dei pavoni. Ma, sorellina, dove troveremo il re dei pavoni? Oh, dovunque tu voglia, sire, ma non sposerò mai nessun altro. Il re e il principe pensarono a come avrebbero potuto fare per trovare il re dei pavoni. Fecero così un ritratto molto somigliante della principessa. Dato che non sposerai nessuno, tranne il re dei pavoni, andremo in giro per l'intero mondo per cercarlo. Nel frattempo, tu prenditi cura del nostro regno. Vi ringrazio per tutto questo. Prometto di prendermi grande cura del regno. Il re e il principe partirono dal castello. Il re e il principe andarono avanti e ancora avanti, così lontano dove nessuno era mai stato prima. Chiesero a tutti coloro che incontrarono: «Conosci il re dei pavoni?» Ma la risposta era sempre «No». Alla fine raggiunsero una strada piena di pavoni. Udirono i loro suoni da molto lontano. La strada li condusse in una città dove trovarono uomini e donne vestiti interamente con piumi di pavone. Presto videro il re, che stava guidando una bella carrozza dorata che brillava di diamanti, trainata a tutta velocità da 12 pavoni. Il re e il principe furono felici di vedere il re dei pavoni. «Sembrate stranieri. Chi siete?» «Sire, mia fratella è un re, come te, e io sono principe. E questo è un ritratto di nostra sorella, la principessa Rosetta. Siamo venuti da molto lontano per chiedere se ti piacerebbe sposarla.» «Il suo cuore è dorato e bello come i suoi capelli?» «È 100 volte meglio di così!» «Molto bene. La sposerò con tanta gioia e la renderò molto felice. Le darò tutto ciò che vorrà e l'amerò teneramente. Solo vi avverto, se il suo cuore non è così dorato e bello come i suoi capelli, mi dovrò punire.» «Oh, certamente, stiamo d'accordo.» «Molto bene, andate nelle camere per gli ospiti del mio regno e rimanete lì finché la principessa non sarà arrivata.» Presto, Rosetta ricevette una lettera dai suoi fratelli che diceva che il re dei pavoni era stato trovato e che lei doveva preparare subito i bagagli e mettersi in viaggio, perché il re dei pavoni stava aspettando di sposarla. «Il re dei pavoni è stato trovato ed è pronto a sposarmi!» Rosetta decise di lasciare il regno di suo fratello nelle mani del più saggio vecchio della città. «Prendi tu il controllo di tutto. Assicurati che le persone siano felici e contente fino al ritorno del re.» Si mise così in viaggio, accompagnata dalla sua balia, la figlia della balia, e il suo piccolo cane verde Frisk. Salirono su una barca e partirono in mare. Quando Rosetta e Frisk si addormentarono, la balia maligna parlò con il barcaiolo. «Vuoi guadagnare una fortuna?» «Certamente lo voglio.» «Bene, ti darò 100 monete d'oro se mi aiuterai a gettare la principessa nel mare. E quando lei sarà annegata, metterò i suoi bei vestiti a mia figlia e la porteremo dal re dei pavoni, che sarà certo felice di sposarla.» Il pensiero di ottenere 100 monete d'oro gli fece subito accettare la proposta. La balia malvagia, il barcaiolo e sua figlia presero la principessa insieme al letto di piume e Frisk e li gettarono nell'acqua. Per fortuna, il letto della principessa era interamente imbottito di piume di fenice, che sono molto rare e hanno la proprietà di galleggiare sempre nell'acqua. Così Rosetta continuò a galleggiare, come se fosse stata su una barca. Frisk, che improvvisamente si svegliò, cominciò ad abbaiare. Abbaiò così a lungo e così forte da svegliare Rosetta e tutti i pesci che andarono a nuotare intorno al letto della principessa, colpendolo con le loro grandi teste. «Ci hanno ingannati!» La balia malvagia e il barcaiolo erano ormai molto lontani. «Facciamo in fretta! Dovremmo essere abbastanza vicini alla città del re dei pavoni.» La figlia della balia indossò l'abito più bello di Rosetta e si coprì di diamanti dalla testa ai piedi. La barca raggiunse la riva del regno del re dei pavoni. Quando scese dalla barca e la scorta inviata dal re dei pavoni la vide, Rimasero molto sorpresi. Portatemi qualcosa da mangiare, altrimenti farò tagliare tutte le vostre teste. Non solo non hai capelli dorati, è anche malvagia. Che sposa per il nostro povero re. Di certo non valeva la pena farla arrivare dall'altra parte del mondo. La processione fu lunga e avanzò lentamente. E la figlia della balia si sedette nella sua carrozza cercando di sembrare una regina. Dava schiaffi e pizzicotti a tutti quelli che gli si avvicinavano. Nel frattempo, Rosetta e Frisk, con l'aiuto dei pesci, raggiunsero la riva del regno dei pavoni. Grazie mille, amici! Non dimenticherò mai il vostro aiuto e parlerò di voi ai miei amici e alla mia famiglia. Dobbiamo sbrigarci. Fai strada, Frisk! La processione raggiunse il palazzo dove il re dei pavoni stava aspettando assieme ai fratelli di Rosetta per dare il benvenuto alla principessa. La finta regina uscì dalla carrozza e prese a calcio un pavone vicino. Fuori dai piedi! Cosa? Voi due mascalzoni che vi fate chiamare re e principe avete il coraggio di farmi un simile scherzo? Vostra sorella non ha i capelli d'oro e sicuramente non è gentile. Credete che sposerò questa creatura dal cuore freddo? Ma lei non è nostra sorella. C'è un equivoco. Bugie, bugie, bugie, guardie. Chiudeteli insieme alla loro sorella nella mia grande torre come prigionieri. Fermi! Rosetta corse verso il re dei pavoni con Frisk dietro di lei. Si incicò davanti al re. Oh, re dei pavoni, io sono la vera principessa Rosetta e lei, vestita come me, è la figlia della mia balia. Il re dei pavoni rimase scioccato. Rosetta spiegò tutto al re dei pavoni. Guardie, prendete la balia e sua figlia, legatele con le corde e gettatele in mare. Le guardie lasciarono immediatamente i fratelli, afferrarono la balia malvagia e sua figlia, ma Rosetta si voltò verso il re e disse: Oh, re dei pavoni, per favore non far loro del male, per favore perdonale. La loro avidità ha avuto la meglio su di loro. Se le perdonerai, impareranno sicuramente dal loro errore e non faranno mai più del male a nessuno. Il re dei pavoni fu molto colpito dal gesto di gentilezza di Rosetta nei confronti della balia malvagia e di sua figlia, nonostante avessero tentato di ferirla. Sorrise. Non solo i tuoi capelli sono dorati, il tuo cuore è il più dorato che possa mai esistere. Sono davvero colpito. Il re dei pavoni perdonò la balia malvagia e sua figlia. La balia restituì a Rosetta tutti i suoi vestiti, i suoi gioielli e il resto delle monete d'oro. Il re dei pavoni si scusò molto con il re e suo fratello per come erano stati trattati. Venne celebrato il matrimonio e tutti vissero felici e contenti. Persino Frisk, che godeva dei lussi più grandi e dei più grandi dolcetti, visse felice e contento.